Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Agli italiani si chiede di imparare a risparmiare energia elettrica, utilizzarla in modo efficiente e magari anche gli si chiede di abbandonare il mercato a maggior tutela per buttarsi su quello libero. Ma fino a che punto gli italiani hanno le competenze per cimentarsi con successo in queste sfide? Ebbene, un'indagine dell'acquirente unico che in Italia acquista l'energia elettrica destinata al mercato a maggior tutela, al quale tuttora fanno riferimento la stragrande maggioranza delle famiglie italiane, ebbene, dicevo, un'indagine fa luce su quanto scarse siano queste competenze. Federico Pedrocchi ne ha parlato con Paolo Vigevano, amministratore delegato dell'acquirente unico, che ha incontrato al Festival dell'Energia a fine maggio a Roma. Sentiamo. Avete presentato i dati di un'inchiesta su quello che il pubblico ha in mente rispetto ai tanti aspetti dell'energia. Quali sono le idee che la gente ha rispetto a numeri, costi, insomma, mi pare che il quadro che ne sia venuto fuori è abbastanza sorprendente. Più che sorprendente, è realistico rispetto a una commodity, a un'area, quella dell'energia, che è una delle più complesse perché è tecnicamente il consumo orario, la gente non capisce, non sa, non interessa se l'energia si immagazzina o no. Comunque, e poi rappresenta una voce importante nell'arco dell'anno, ma sempre dei 500 euro all'anno più o meno per una famiglia normale, quindi non è il costo del telefono. Il problema è che sempre di più c'è una pressione sugli utenti finali per ridurre tutti i consumi, incluso quello dell'energia. E qui incominciano ad esserci problemi, perché i consumatori finali non hanno nozione esatta di cosa c'è nella bolletta, di cos'è l'energia, il prezzo dell'energia, se è costo effettivo di produzione o cos'altro. Arriviamo a dei dati, io li do così, ma di questa indagine, che ti dico che su 500 per 600 persone solo una ventina sanno più o meno quanto costa davvero l'energia inclusa nella bolletta, quello che pagano. Una minima parte di loro sa se sono tasse o se è un consumo di un servizio, cioè arriviamo a dei livelli in generale, quindi parliamo su 30 milioni di utenti, quindi non parliamo di piccole fasce più o meno maggiormente informate. Nella media abbiamo una scarsa informazione e di conseguenza una difficoltà a capire come contenere il consumo e come contenere la spesa. E quindi questo è il punto importante da focalizzare lato consumatore finale. Ma voi avete anche chiesto che cosa pensano siano i costumi delle varie attività, dei vari strumenti, dispositivi che ci sono in casa, per esempio? Sì, più o meno una certa attendibilità in questo senso c'è, nel senso che una discreta informazione, capire che consuma più un frigorifero o un forno di un computer, ecco, queste sono cose che ci arrivano. Però quanto è la spesa corrispondente all'elettrodomestico usato, lì andiamo un po' più sul difficile, quindi andiamo su solo un terzo del, anzi meno, scusate, il 15% del campione che sa leggere e capire il contatore. Abbiamo questi livelli di bassissimo livello di informazione. Non è un problema solo italiano, è un problema europeo in questo senso, perché si è passati, cioè, l'energia elettrica era un qualche cosa che non arrivava alla bolletta, ai tempi del monopolio pagavi e basta. Poi si conquistò maggiore trasparenza, nel senso di incominciare a capire bollette estremamente complesse. Adesso il problema ulteriore è capire effettivamente come faccio a ridurre i consumi, quindi capire come articolare il mio uso, e dall'altra parte come capire le diverse offerte, perché quello è l'altro aspetto difficile da interpretare. Le diverse offerte. Certo, nel senso che il cliente finale nasce nell'area della maggior tutela e poi passa gradualmente al mercato libero. Per passare al mercato libero deve necessariamente essere informato, avere qualche nozione, capire quali sono i vantaggi. E ancora su questo piano il livello di informazione è molto basso. In Italia e in Europa in generale l'utente finale non è soddisfatto del mercato libero. A volte addirittura crede di pagare di più che nel mercato tutelato, e a volte paga di più. ma anche perché non conosceva esattamente la sua posizione di partenza. Quindi hai questo tipo di complessità da risolvere. Cioè viene un po' a crearsi una situazione come quella che si è verificata con quella immensa varietà di offerte per il cellulare, insomma la gente si perde. Peggio, perché mentre per il cellulare c'è una facile identificabilità dei diversi servizi forniti, c'è anche una facile lettura della spesa perché la bolletta telefonica ti dice come spendi i tuoi soldi. Nell'elettricità la bolletta è qualcosa di estremamente complesso. Il commissario europeo Oettinger dice: ma io leggendo la bolletta del telefono capisco come ho speso i soldi, leggendo quella elettrica non lo capisco, non capisco niente. Tenete presente che la spesa elettrica del consumatore finale è rimasta a fronte di una diminuzione negli ultimi 10 anni dei consumi complessivi, tenendo presente che in questo arco di tempo però il numero di utenti è aumentato, se non altro per il fatto che i nuclei familiari diventano più piccoli, per cui una famiglia di 5 persone diventa di 3, di 2, ma diventano più piccoli, quindi dovrebbero aumentare. Che col tempo gli elettrodomestici tendono a aumentare, in casa uno non c'ha solo il frigorifero ma c'ha il surgelatore. Nonostante tutto ciò, la spesa del consumo domestico è rimasto stabile, quindi ci troviamo di fronte a una situazione di stagnazione di questo mercato e va affrontata in questi termini perché è analizzata in questi termini per capire come intervenire. Beh, mi pare che non potessero essere più chiari. Grazie a Federico Pedrocchi e a Paolo Vigevano. Appuntamento a domani.